Era calato il crepuscolo e cucinai la cena. Dallo chalet avevo portato l'ultimo barattolo di marmellata di mirtilli rossi, così preparai delle frittelle senza uova. Una volta fatta l'abitudine, non erano male. La conclusione della fienagione mi sembrò una buona occasione per una festa del genere. A quel tempo, comunque, non soffrivo più tanto per il desiderio di ghiottonerie introvabili. La fantasia non veniva più stimolata dall'esterno e le voglie lentamente si assopivano. Ero già contenta di riuscire a sfamare me stessa e gli animali senza dover patire la fame. Perfino lo zucchero mi mancava appena. Quell'estate andai solo due volte al posto dei lamponi per riempire un secchio di frutti. Il cammino era troppo lungo e faticoso. I frutti, del resto, erano meno abbondanti dell'estate precedente, forse a causa della siccità. I lamponi erano piccoli e dolcissimi. Vidi che la vegetazione incominciava a invadere i cespugli. Tra qualche anno saranno ricoperti di intrichi vegetali e soffocati dal sottobosco. Dopo il taglio del fieno, rimasi tranquillamente a casa, passando molto tempo seduta sulla panca. Ero stanca e un poco esaurita, e la segreta magia aveva ripreso a irretirmi. Le mie giornate ora trascorrevano con molta regolarità. Mi alzavo alle 6, mungevo Bella e la facevo uscire con Toro al pascolo. Poi ripulivo la stalla e portavo il latte nella capanna per versarlo nei recipienti di terracotta in modo che la panna potesse salire in superficie. Poi facevo colazione e davo da mangiare a Lince e a Tigre. A Lince, la mattina, davo il suo pasto, a Tigre solo del latte. Per qualche motivo, forse perché era un animale notturno, Tigre voleva mangiare solo la sera. E la sera il latte toccava a Lince. Poi seguivano i giochi mattutini di Tigre, rincorrersi tutto attorno alla capanna. Qualche volta mi costava uno sforzo, sebbene mi giovasse e il gatto ne avesse bisogno per la sua salute. Il gioco aveva regole precise, tutte inventate e stabilite da Tigre. Doveva svolgersi sempre nella stessa direzione, scegliendo sempre gli stessi nascondigli. L'angolo della capanna, una vecchia botte per l'acqua piovana, una catasta di rami secchi, una grossa pietra, un angolo della casa e un ceppo per spaccare la legna. Tigre sfrecciava dietro l'angolo e io dovevo fingermi tonta e cercarlo sospirando dall'agitazione. Non dovevo accorgermi se lui, prima di avventarsi con un balzo ardito sulle mie gambe, faceva capolino dietro l'angolo. Poi era la volta della botte, che dovevo ciecamente oltrepassare brancolando a tastoni. Dopo un morso piuttosto forte, ma non troppo doloroso, mi era concesso cacciare un urlo, mentre Tigre scompariva con la coda ritta dietro la catasta di legna. Dovevo girarvi attorno a lungo semplicemente perché nel suo colore mimetico non riuscivo a distinguere il gattino fino al momento in cui se ne veniva di lato balzellando sulle punte come un cavallo e facendo un'enorme gobba. Tutto ciò per dimostrare che lui, fiero e astuto predatore, riusciva a spaventare uno stupido, ridicolo essere umano. Quello stupido essere umano, tuttavia, era anche l'essere amato e gradito. E quindi non veniva divorato, ma una volta finito il gioco, leccato teneramente. Forse non avrei dovuto assecondarlo in quel genere di giochi. Probabilmente gli provocarono una specie di megalomania che lo rese imprudente verso qualsiasi pericolo reale. Tigre, quel gioco, lo avrebbe ripetuto anche 50 volte. Per me 10 erano più che sufficienti. Ma comunque fosse, dopo era abbastanza soddisfatto da tornare nell'armadio a fare un sonnellino. All'inizio Lince avrebbe voluto giocare con noi e ci correva attorno, abbaiando con salti maldestri. Tigre però lo rimetteva al suo posto con un rimbrotto inflessibile e il cane seguiva il gioco sulla distanza, ansimando forte con uno scodinzolio agitato. Solo se non avevo tempo e mi mostravo assolutamente irremovibile, Lince poteva prendere il mio posto. In quel caso, comunque, entrambi non sembravano divertirsi granché. Dopo un breve riposo mi occupavo del latte, che richiedeva sempre qualche manipolazione. Bisognava levare la panna, la maggior parte del latte scremato era destinato a Toro. Ogni tanto riuscivo anche a montare del burro, oppure a struggere quello rimasto. Naturalmente la mia provvista di burro fuso non era mai abbondante. Ci volevano diversi giorni prima di aver scremato abbastanza panna. Io stessa bevevo molto latte per mantenermi in buona salute con quell'alimentazione monotona e tutti i giorni me ne occorreva un poco anche per lince e per tigre. Poi rigovernavo la capanna, arieggiavo il letto, lavavo o spazzavo e preparavo il pasto di mezzogiorno. Non vale la pena di parlarne, per lo più cercavo qualche erba commestibile nel prato per insaporire un poco la carne. Nel prato trovavo anche dei funghi, ma non conoscendoli non osavo mangiarli. Avevano un aspetto molto allettante, ma visto che Bella non li toccava, tenni a bada la mia fame. Dopo colazione sedevo sulla panca e sprofondavo in una torbida sonnolenza. Il sole mi illuminava il viso e la testa si appesantiva per la stanchezza. Quando mi accorgevo di essere sul punto di addormentarmi, mi alzavo per andare nel bosco con Lince. Aveva bisogno di quell'escursione quotidiana quanto tigre del suo gioco mattutino. Per lo più andavamo fino al punto panoramico e scrutavo il territorio col cannocchiale. Ormai, in realtà, lo facevo solo per abitudine. I campanili brillavano sempre dello stesso rosso. Solo il colore dei campi e dei prati si alterava leggermente. Quando soffiava il fön, tutto appariva variopinto e a portata di mano. Col vento di levante, invece, il paese si celava dietro leggere velature azzurrognole. E ogni tanto, quando la nebbia ristagnava sul fiume, non vedevo assolutamente nulla. Non rimanevo mai seduta a lungo. Era troppo noioso per Lince. Riprendevo la via del bosco e percorrendo un ampio arco, generalmente tornavo alla capanna verso le 4 o le 5 dalla direzione opposta. Durante le mie passeggiate vedevo solo selvaggina d'alta montagna. I caprioli non salivano più a queste alture. Attraverso il cannocchiale riuscivo talvolta a scorgere qualche camoscio sulle bianche rupi calcaree. Nel corso dell'estate trovai 4 camosci morti che si erano rintanati sotto i cespugli. Quando perdevano la vista, scendevano a valle. Quei 4 non erano andati molto lontano. La morte li aveva raggiunti rapidamente. In realtà, per arrestare l'epidemia e liberare quelle povere bestie dalla loro sofferenza, si sarebbero dovuti abbattere tutti. Ma a quella distanza non li avrei centrati e dovevo economizzare i proiettili. Non mi restava dunque che assistere a quello sfacelo. Al ritorno dalla nostra escursione, Lince saltava sulla panca e si addormentava al sole. Il manto peloso pareva proteggerlo dal momento che riusciva a sonnecchiare per delle ore esposto alla canicola. Nel frattempo mi davo da fare nella stalla, segavo un po' di legna oppure accomodavo qualcosa. Molte volte però non facevo proprio nulla e guardavo Bella e Toro oppure osservavo una poiana mentre descriveva i suoi cerchi sopra il bosco. Ignoro se fosse veramente una poiana. Poteva essere ugualmente un falco o uno sparviero. Avevo preso l'abitudine di chiamare poiane tutti gli uccelli rapaci perché quel nome mi piaceva molto. Ero sempre un po' inquieta per tigre se spuntava troppo spesso. Per fortuna il gattino preferiva trattenersi vicino alla capanna, quasi avesse timore di attraversare il vasto prato per raggiungere il bosco. Attorno alla capanna, d'altronde, trovava prede a volontà. Le grasse cavallette saltavano fin sulla soglia della porta, dritto tra le sue zampe. La poiana mi piaceva molto, sebbene avessi ragione di temerla. Era bellissima a vedersi e la seguivo con lo sguardo fin quando si perdeva nell'azzurro del cielo oppure si tuffava impicchiata nel bosco. Il suo grido roco era l'unica voce estranea che mi giungeva sull'Alpe. Preferivo però lasciar vagare lo sguardo sul prato. Era sempre in leggero movimento, anche quando credevo non ci fosse vento. Un lieve, infinito ondeggiare che emanava pace e un delizioso profumo. Vi cresceva pure la lavanda, piccoli rododendri alpini, la bambagia selvatica, il timo e una varietà di erbe di cui non conoscevo i nomi, che avevano un profumo diverso ma altrettanto gradevole quanto il timo. Tigre sedeva spesso con gli occhi stralunati dinanzi a una di quelle erbe aromatiche, sordo a qualsiasi richiamo. Le utilizzava come un oppiomane si serve della droga, solo che quelle ebbrezze erano innocue. Una volta tramontato il sole, Conducevo Bella e Toro nella stalla e sbrigavo il mio lavoro abituale. La cena di solito era molto frugale e consisteva negli avanzi di mezzogiorno oltre a un bicchiere di latte. Solo quando sparavo a un capo di selvaggina vivevamo per qualche giorno nell'opulenza finché la carne non mi dava la nausea. Dopotutto non avevo né pane né patate per contorno, dovendo serbare la farina per i giorni in cui non avrei avuto più carne. Poi sedevo sulla panca e aspettavo. Il prato lentamente si assopiva, apparivano le stelle e più tardi la luna si levava alta, immergendo la distesa d'erba nella sua luce fredda. Queste ore le aspettavo tutto il giorno con una smania segreta. Erano le sole in cui fossi in grado di pensare con grande chiarezza e completamente senza illusioni. Non cercavo più un senso che mi rendesse la vita più sopportabile. Un simile desiderio mi sembrava quasi arrogante. Gli uomini avevano giocato i loro giochi ed erano quasi sempre finiti male. Di cosa potevo lagnarmi? Ero una di loro e non potevo condannarli perché li capivo troppo bene. Era meglio distogliere i pensieri dagli uomini. Il grande gioco del sole, della luna e delle stelle sembrava riuscito. Difatti non era stato inventato dagli uomini. Ma il gioco non era ancora concluso. E poteva portare in sé il germe del fallimento. Io ero solo uno spettatore attento e incantato. Tutta la mia vita non sarebbe bastata ad abbracciare nemmeno un'infinitesima fase di quel gioco. La maggior parte della mia vita l'avevo passata ad arrabattarmi dietro agli affanni quotidiani. Ora, non possedendo quasi più nulla, potevo permettermi di sedere in pace sulla panca a osservare la danza delle stelle nella tenebra del firmamento. Mi ero allontanata da me stessa quanto è possibile a un essere umano e sapevo che questa condizione non poteva protrarsi se volevo restare in vita. Già allora mi capitava di pensare che più avanti non avrei capito cosa mi avesse preso sull'Alpe. Compresi che tutto, o quasi tutto, di ciò che avevo fatto o pensato fin lì era stata solo un'imitazione. Altre persone avevano pensato e agito per me, prima di me. Dovevo solo seguire la loro traccia. Le ore sulla panca davanti alla capanna erano la realtà, un'esperienza che facevo in proprio, anche se incompleta. Quasi sempre i pensieri erano più rapidi degli occhi e falsificavano l'immagine reale. Dopo il risveglio, quando lo spirito è ancora paralizzato dal sonno, vedo talvolta delle cose senza riuscire a riconoscerle e a classificarle. L'impressione è angosciante e minacciosa. Ad esempio, solo nel momento in cui la riconosco, la poltrona con i miei vestiti si trasforma in un oggetto familiare. Un istante prima era ancora qualcosa di un'ineffabile estraneità e mi provocava il batticuore. Non mi dedicavo molto spesso a esperimenti del genere, ma non era poi sorprendente che lo facessi. Non esisteva proprio nulla che potesse distrarmi e occuparmi la mente. Non un libro, non un discorso, nessuna musica, nulla. Fin dall'infanzia avevo disimparato a vedere le cose con i miei occhi e avevo scordato che il mondo un tempo era stato giovane, intatto e molto bello e terrificante. Non potevo ritrovare il cammino perduto, non ero più una bambina, non più capace di sentire e vedere come una bambina. Eppure la solitudine, per alcuni attimi senza memoria e senza coscienza, mi aveva portato a contemplare ancora una volta l'immenso splendore della vita. Forse gli animali vivono fino alla morte in un mondo di orrori e di incanti. Non possono fuggire e sono costretti a sopportare la realtà fino alla fine. Perfino la loro morte è priva di conforto e di speranza. Una vera morte. Anch'io, come tutti gli esseri umani, mi affrettavo continuamente a fuggire, sempre irretita dai miei sogni a occhi aperti. Non avendo visto la morte delle mie bambine, mi mettevo in mente che fossero ancora in vita. Ma ho visto massacrare Lince. Ho visto il cervello di Toro riversarsi dal suo cranio spaccato. e ho visto Perla trascinarsi come una cosa invertebrata e dissanguarsi. E continuo a sentire il caldo cuore dei caprioli farsi freddo tra le mie mani. Quella era la realtà. Poiché ho visto tutto questo e l'ho sentito, mi è difficile sognare a occhi aperti. Nutro una violenta avversione per i sogni a occhi aperti e sento che me la speranza si è spenta. Mi fa paura. Non so se riuscirò a sopportare di vivere unicamente con la realtà. Ogni tanto provo a trattarmi come un robot. Fai questo, vai là, non dimenticare di fare quest'altro. Ma funziona solo per poco tempo. Sono un pessimo robot. Continuo a essere una creatura umana che pensa e sente e non riuscirò a perdere questa abitudine. Perciò siedo qui ad annotare tutto quello che è successo. E non me ne importa se i topi divoreranno o meno questi appunti. La sola cosa che conta è scrivere. E non esistendo più altri discorsi, devo tener vivo questo monologo senza fine. Sarà l'unica cronaca che mai scriverò, perché quando sarà terminata, in casa non resterà un solo pezzetto di carta sul quale poter scrivere. Già ora tremo, pensando all'attimo in cui dovrò andare a letto. Resterò distesa a occhi aperti fin quando la gatta tornerà a casa e il suo contatto caldo mi regalerà infine il sonno tanto desiderato. Ma nemmeno allora sarò al sicuro. Quando sono in difesa, possono assalirmi i sogni, i neri sogni della notte. Mi è difficile districare i miei ricordi di quell'estate sull'Alpe, che mi appare tanto irreale e remota. A quel tempo lince, tigre e toro vivevano ancora e io non presagivo nulla. Ogni tanto sogno di cercare l'Alpe, senza riuscire a trovarla. Attraverso il sottobosco e la foresta, su sentieri scoscesi, e al risveglio sono stanca e abbattuta. È strano, nel sogno cerco l'Alpe e durante la veglia sono felice di non doverci nemmeno pensare. Non desidero rivederla più, mai più. Durante l'agosto ci furono ancora due o tre temporali, tuttavia mai molto violenti e sempre di breve durata. Se ogni tanto c'era un'ombra cupa a inquietarmi, era il fatto che tutto fosse andato così liscio. Godevamo tutti di buona salute, i giorni continuavano a essere caldi e profumati e le notti tra punte di stelle. Alla fine, poiché continuava a non succedere nulla, mi abituai a quella condizione, accettando pacatamente quanto c'era di buono, quasi non mi fossi mai attesa altro. Il passato e il futuro fluttuavano attorno alla piccola isola calda del presente. Sapevo che non poteva durare così, ma non me ne preoccupavo. Nel ricordo, quell'estate è offuscata dagli avvenimenti che si verificarono molto più tardi. Non sento più quanto fosse bella, lo so soltanto. È una differenza terribile. Per questo non riesco a disegnare l'immagine dell'Alpe. I miei sensi ricordano meno bene del mio cervello e forse un giorno cesseranno del tutto di ricordare. Prima che ciò avvenga, devo aver scritto tutto. Ormai l'estate si avviava alla fine. Nell'ultima settimana d'agosto sopraggiunse il cattivo tempo. Si fece freddo e piovoso e fui costretta a riscaldare tutto il giorno. In quel periodo consumai troppi fiammiferi, perché le fascine e i rami secchi andavano in cenere appena lasciavo la capanna. Bella e Toro rimasero al pascolo. Non sembravano patire il freddo, avevano solo l'aria meno allegra che durante l'estate. Tigre trascorse un'infelice settimana nella capanna, sedendo sul davanzale a fissare intristito la pioggia. Io sbrigavo il mio lavoro quotidiano, incominciando pian piano a desiderare lo chalet della riserva, la mia vestaglia, la trapunta e i ceppi di faggio crepitanti. A mezzogiorno mi infilavo il loden, mi calavo il cappuccio sulla fronte e andavo nel bosco con lince. Vagavo senza meta sotto gli alberi gocciolanti, lasciando che lince annusasse qualche traccia per tenerlo di buon umore, e tornavo alla capanna intirizzita. Non avendo altro da fare, andavo a dormire presto e più dormivo, più mi sentivo insonnolita. Ciò mi mise di malumore e incominciai a incupirmi. Tigre vagava lamentoso dalla cucina alla cameretta cercando di invogliarmi a giocare, ma ben presto la cosa gli venne a noia e ci rinunciò da sé. Solo Lince non se la prese per la pioggia. A parte le nostre brevi escursioni, dormiva giorno e notte nella nicchia della stufa. Alla fine incominciò perfino a nevicare, giganteschi fiocchi di neve bagnata. Presto ci trovammo in mezzo a una violenta tempesta di neve. Mi infilai gli abiti e condussi Bella e Toro nella stalla. Nevicò tutta la notte e la mattina la coltre bianca era alta 10 centimetri. Il cielo era coperto e tirava un vento freddo. Verso il pomeriggio l'aria si scaldò e cadde un po' di pioggia. A quel punto mi fu chiaro che non potevo rinviare più a lungo il nostro ritorno a casa. Una settimana dopo mi svegliai a causa del sole che mi cadeva in viso. Il tempo si era effettivamente ristabilito ancora una volta. L'aria era sempre fredda, ma il cielo era limpido, d'un azzurro chiaro. Il sole mi sembrò un po' più piccolo e meno luminoso di prima, ma doveva certo trattarsi solo di una mia impressione. La giornata appariva di una bellezza radiosa, eppure qualcosa era mutato. Sulle rocce brillava la prima neve, facendomi rabbrividire. Lince e Tigre aspettavano già davanti alla porta. Li feci uscire all'aperto, poi condussi Bella e Toro al pascolo. L'aria odorava di neve e divenne caldo solo verso mezzogiorno. L'estate era finita, ma a questo punto preferivo attendere per ricondurre a valle le mie bestie. E difatti il tempo rimase bello fino al 20 settembre. La sera ero costretta a contemplare le stelle attraverso i vetri della finestra, fuori faceva già troppo freddo. Parevano essersi allontanate ancora di più nello spazio e la loro luce brillava più fredda che nelle notti d'estate. Ripresi la mia vita di sempre, andavo a passeggiare con Lince, giocavo con Tigre e mi occupavo della casa. Eppure, per qualche singolare motivo, mi sentivo leggermente disincantata. Una notte, già incominciavo a sentir freddo nel letto, mi resi conto che attendere oltre era pericoloso. Di prima mattina stipai gli oggetti indispensabili nello zaino, rinchiusi Tigre nell'odiata scatola e dopo aver fatto uscire Bella e Toro dalla stalla, fui pronta a partire. Ci incamminammo alle 7 e raggiungemmo lo chalet di caccia alle 11. Per prima cosa liberai Tigre, che si lamentava in modo straziante dalla sua prigione, e lo chiusi in casa. Bella e Toro, dopo averli abbeverati alla fontana, li condussi a pascolare nella radura. Il tempo d'altronde era ancora bello e quaggiù faceva più caldo che sull'Alpe. Quando entrai in casa, Tigre si era già sdraiato nell'armadio, dove sembrava sentirsi al sicuro. Lince salutò lo chalet con gioia. Capiva che eravamo tornati al nostro focolare e col suo ansimare agitato mi accompagnava ovunque andassi. Mi occupai della casa fino a pomeriggio inoltrato e solo dopo la mungitura e dopo aver ricondotto Bella e Toro nella loro vecchia stalla trovai il tempo per mangiare qualcosa. Nella stufa ardeva il fuoco, un vero fuoco crepitante di ceppi di faggio e la casa aveva odore di aria e di legno lavato. Lince si rintanò nella nicchia della stufa. E sopraffatta dalla stanchezza, me ne andai a letto anch'io. Mi allungai con le gambe distese, spensi la candela e mi addormentai di colpo. Qualcosa di umido e freddo mi sfiorò il viso, svegliandomi con piccole grida festose. Accesi il lume, poi presi tra le braccia il fagotto grigio madido di Rugiada e me lo strinsi al petto. La gatta era veramente tornata a casa. Tra un gorgogliare di fusa e infiniti miagolii, raccontò le sue esperienze di quella lunga estate solitaria. Mi alzai per riempirle la scodella di latte caldo e lei vi si precipitò con avidità. Era magra e trascurata, ma per il resto sembrava godere di buona salute. Lince si avvicinò e i due si salutarono quasi con tenerezza. Forse ero stata sempre ingiusta verso la gatta, ritenendola fredda e poco affettuosa. Del resto, una stufa calda, del latte dolce e un posto sicuro sul letto valgono bene qualche grido di gioia. Comunque fosse, eravamo tutti felicemente riuniti e quando tornata a letto sentii il corpo familiare contro le mie gambe, fui veramente contenta di essere di nuovo a casa. Era stato bello sull'Alpe, molto più bello di quanto potesse essere quaggiù, ma la mia vera casa era questa. Ripensai all'estate quasi con disagio e fui contenta di essere tornata alla mia vita abituale. Nei giorni seguenti trovai poco tempo per gli animali. Tutte le mattine risalivo sull'Alpe con l'ince per riportare a valle grossi zaini zeppi di masserizie. Facevo meno fatica di quanta ne avessi fatta in maggio, perché questa volta il cammino era in discesa. Solo la zangola mi lasciò di nuovo alcuni lividi sulla schiena. Prima di inoltrarmi nel bosco, mi voltai indietro un'ultima volta e rividi il prato, increspato dal vento autunnale sotto il cielo alto d'un azzurro chiarissimo. Già non appartenevo più a quella vastità, a quel silenzio. Sapevo che quell'estate non si sarebbe ripetuta. Non esisteva alcun motivo razionale, eppure lo sapevo con assoluta certezza. Oggi credo di averlo saputo perché non desideravo una ripetizione. Qualsiasi esasperazione di quello stato eccezionale mi avrebbe esposto insieme alle mie bestie a un grave pericolo. Scendevamo tra cupi abeti per sentieri scoscesi e il minuscolo lembo d'azzurro sopra di me non aveva più nulla in comune col cielo dell'Alpe. Ogni ciottolo lungo il cammino, ogni piccolo cespuglio mi appariva familiare, bello, anche se un poco banale paragonato alla neve scintillante sulle rocce. Eppure era questa banalità familiare di cui avevo bisogno per vivere, se volevo restare un essere umano. Sull'Alpe, una parte della freddezza e della vastità del cielo s'erano insinuate in me e mi avevano impercettibilmente allontanato dalla vita. Tutto questo era ormai molto lontano. Mentre scendevo a valle, non era solo la zangola a pesarmi dolorosamente sulle spalle. Tutte le preoccupazioni accantonate tornavano a farsi vive. Non ero più disancorata dalla terra, ma oppressa e travagliata, come si addice a un essere umano. Mi sembrò giusto e nell'ordine delle cose, e presi docilmente su di me quel pesante fardello. Dopo 2 giorni di riposo, ispezionai il campo delle patate. Le piante crescevano verdi e fitte, senza accennare a ingiallire. Dovevo nutrirmi di carne e farina ancora per qualche settimana, ma cominciava a scarseggiare anche la farina. Cucinai delle ortiche per sostituire gli spinaci. Non erano buone come in primavera, ma perlomeno riempivano lo stomaco. Poi andai a far visita ai miei alberi da frutto. Le prugne, dopo un'abbondante fioritura e allegagione, dovevano essere cadute durante l'estate. Le mele erano invece più numerose dell'anno precedente e c'erano moltissime meline selvatiche. Anche per questo raccolto dovevo pazientare. Mangiai una mela, che però era verde e mi provocò dei dolori allo stomaco. Per me iniziava il secondo autunno nel bosco. I ciclamini fiorivano nelle umide zone d'ombra sotto i cespugli di nocciolo e la gola era orlata di genziane color cobalto. Il vento di levante girò a meridione portando con sé un'aria sgradevolmente calda. Forse avevo davvero lasciato l'Alpe in anticipo, ma sapevo che al Föhn sarebbe presto seguito il maltempo. Mi sentivo irritabile e stanca e trascinavo il fieno nel garage. Ero contenta di aver spaccato abbastanza legna durante la primavera, così da evitare perlomeno questa fatica. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.